parte chi ci crede se non stupida, una stupida fatalità. Innamorarsi quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti e non lo devi nominare, perché lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta. Viene, se ne va, succede a chi? Alle ragazze per bene. Non cadrò nei cliché. Lui è un esibizionista senza dignità. Sei mai stata crocifissa per ingenuità? Succede a chi? Alle ragazze per bene. Non cadrò nei cliché. Perché farà meglio sola. Farà meglio una pistola. Succede a chi? Oddio, magari succede. Ci provasse con me, chi lo sa se ci rivedrei. Uscito dalla torta del mio compleanno, mi interessava altro, ma nella doccia ti ho pensato un po'. Fatalità, innamorarsi quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti e non lo